La situazione è piuttosto paradossale, nel senso che abbiamo, diciamo, il sindaco che dovrebbe essere in questo caso la massima autorità locale in termini di protezione civile, che di fatto sembra lavarsi le mani del problema di ancora decine di persone che non hanno un luogo dove alloggiare, comunicando sui propri social appunto che il luogo dove ora sono momentaneamente in emergenza collocate chiuderà per loro da domenica sera. Per questo, tra l'altro, un comitato che si è costituito proprio tra i cittadini residenti al grattacielo ha inviato una lettera aperta, appunto, mettendo in luce la loro situazione, ed è stata convocata anche una manifestazione a Ferrara domenica prossima davanti al Palapalestra, dove sono attualmente ospitate queste persone. Sullo stesso sito del comune di Ferrara, nel comunicato che annuncia la chiusura domenica, insomma, il comunicato sembra avere già delle giustificazioni dicendo che quella che è andata, che appunto dove si è sviluppato l'incendio, è una struttura privata e non pubblica, e il comune potrà fare da mediatore, diciamo, per i soggetti privati sul mercato per trovare un alloggio in affitto. Le calamità non guardano in faccia al proprietario, che sia pubblico o privato, del luogo. È compito dell'amministrazione, lo dice il codice della protezione civile, ma lo direbbe un qualsiasi principio di umanità e solidarietà, tra l'altro che dovrebbe essere molto caro a chi ogni volta che può si richiama alle radici cristiane dell'Occidente, quello di non terminare alcun intervento di assistenza finché l'ultima persona non è stata collocata in una struttura, in un appartamento, in una casa alloggio, in qualsiasi luogo le possa dare la serenità di affrontare i prossimi mesi in sicurezza. Perché la situazione in grattacielo è una situazione che conosciamo bene da anni. Già nel 2017 ci fu un tentativo da parte dell'amministrazione comunale di allora, di segno opposto a quella di oggi, per cercare di trovare una soluzione a un problema di sicurezza che c'era nella Torre B, che è stata oggi, diciamo, evacuata in questi giorni, ma rimane anche nella Torre A, di cui infatti si comincia a parlare anche lì di possibile evacuazione, come nella Torre C, che è quella più bassa. Non si capisce, non si comprende bene per quale motivo l'amministrazione dovrebbe abbandonare questi cittadini ferraresi, perché sono cittadini ferraresi che risiedono nella nostra città, che pagano le tasse, probabilmente per il solo fatto che la maggior parte di questi ha trovato collocazione nel grattacielo, perché è uno dei luoghi a minor costo sia dal punto di vista degli affitti che dell'acquisto, ed è di provenienza migrante. È l'unica motivazione che mi viene da pensare rispetto appunto alla decisione di chiudere la struttura di accoglienza non più di una settimana dopo la calamità. Da domenica sera ci potrebbero essere decine di persone per strada. Sì, madri con bambini, persone che hanno bisogno di assistenza medica, insomma, c'è una situazione davvero più che paradossale, incomprensibile, pensando che appunto è il ruolo del sindaco quello di risolvere questo tipo di emergenze. Parrebbe che invece il sindaco e l'amministrazione comunale se ne voglia lavare le mani come se fosse una pratica burocratica qualsiasi.